sono americano, sono nato in Italia. Faccio parte della cosiddetta classe operaia. Per chi comanda io sono un evasore. Per colpa di ste merde non arrivo a fine mese. Dicono che i giovani non fan bambini. Per forza costa meno l'oro dei pannolini. E te che pensi a girarti il berretto? Ora capisci perché tuo rap ormai mi sta stretto. Sento vaccate, storielle di gangsta da ghetto, spacciatori in doppio petto. Te non sei così, ora capiscimi. Resti con la mamma, quindi ciccio muoviti. A 30 anni non ti dico puttanate. Critico l'ultima fase come quando ti pare piace. E se mi reputi un coglione, bene, leccami l'uccello su, leccalo con passione. Guarda fuori, il mondo va a puttane. Tempo per vederlo attorno, troppo tardi per ricominciare. Ma guarda bene, ormai non vale più cambiare. Hai preso tutto ma i miei sogni non li puoi rubare. Guarda fuori, il mondo va a puttane. Tempo per vederlo attorno, troppo tardi per ricominciare. Ma guarda bene, ormai non vale più cambiare. Hai preso tutto ma i miei sogni non li puoi rubare. Sto alla finestra e guardo fuori, vedo una gioventù colpita che non sta più in piedi. Precari fino a un tempo massimo, ci manca poco che la corda attorno al nostro collo stringono. Mi sento stanco e sempre più smarrito. Scappo dal bianco e nero e cerco un po' di colorito. Capisco che non è come guardare l'arcobaleno. Ci sta la speranza, ma il lavoro è quasi sempre in nero. Mi sveglio la mattina circondato dalla nebbia, cercando un po' di luce, butto un occhio a una finestra. Ma appena guardo fuori, amico, mi si stringe il cuore. Non passerò la vita a diventare un clone. In cerca della gloria, in programmi senza senso. E ancora c'è chi muore sul lavoro sotto tetto. E ancora si fanfare sul governo da votare. Non ha capito che sono tutti bravi a derubare. Guarda fuori, il mondo va a puttane. Tempo per vederlo attorno, troppo tardi per ricominciare. Ma guarda bene, ormai non vale più cambiare. Hai preso tutto ma i miei sogni non li puoi rubare. Guarda fuori, il mondo va a puttane. Tempo per vederlo attorno, troppo tardi per ricominciare. Ma guarda bene, ormai non vale più cambiare. Hai preso tutto ma i miei sogni non li puoi rubare. Se tieni un fuoco, ti piace la vita loca. Ma stai chi rienda fuori o state non darà una mano ma da foca. Agliamo libertà, a me pare oppressione. Voglio più persone pronte a una rivoluzione. Non ne ho cappello sordo oppure non cazzone larga che ti fanno con coruna. Goppe quattro quarta roba all'occhio. Perché ci devo fotto? Non te ne scritto in fronte e tante foto. E proprio chi me ne ta spietta. E chi me ne ta spietta, tu metto un culo e certo. Perché sto mondo sta seccando come a merda. Grazie o guerra. E si ma faccia fora, ci vei canire. Si guarda rinde meglio quando tu dica manca mane Cristo. Può salva con vasta situazione. Si pensa stustiva lo paragona nu scarpona. Disagio e malumore, propone sta nazioni. Pensa che la popolazione è più importante in una persona. Politici, come Ivo pisce un gol. Non mi pozzo poca zona e tu d'armati e ricce monda. Con cosa salta evolve, da che sta società mo si ma cinque lui, ma rimano tutta Italia. Guarda fuori, il mondo va a puttane. Tempo per vederlo attorno, troppo tardi per ricominciare. Ma guarda bene, ormai non vale più cambiare. Hai preso tutto ma i miei sogni non li puoi rubare. Guarda fuori, il mondo va a puttane. Tempo per vederlo attorno, troppo tardi per ricominciare. Ma guarda bene, ormai non vale più cambiare. Hai preso tutto ma i miei sogni non li puoi rubare.